siete tutti convocati. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sì, perché c'è solo da fare il conto alla rovescia, eh? Allora, mancano 7 punti alla Juventus per vincere il quinto scudetto consecutivo, di 9 sul Napoli, 4-0 al Palermo. Può vincere il 24-25 aprile se batte Lazio-Fiorentina e il Napoli non vince a Roma, oppure deve aspettare il 1° maggio e allora basta anche un pareggio con il Carpi se il Napoli dovesse vincere sempre. A questo ci siamo ridotti per la corsa a scudetto, che in questo fine settimana si è praticamente decisa. 800 24 00 24, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte in regia, Carlo Genta, Tony Damascelli, ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Tony. Ciao. Il conto l'abbiamo fatto, in realtà abbiamo capito ieri sera che la corsa a scudetto era ampiamente finita, prima di tutto nella testa del Napoli, mi sembra, prima ancora che nella solita Juve, che oggi insomma ha fatto il suo. Beh, non c'era, insomma, dopo quello che è successo ieri sera non c'erano grandi dubbi su quanto sarebbe accaduto oggi con un Palermo ormai rassegnato, io credo, alla retrocessione. La Juventus ha vinto lo scudetto già da un pezzo, adesso serve il conforto della matematica, ma tu prima hai enunciato il percorso, un percorso che verrà, io credo, bruciato in breve tempo, Tony. Sì. Ieri sera il Napoli ha dimostrato un limite fortissimo, privo di un giocatore fortissimo, e ha perso tutta la sua personalità, tutta la sua forza mentale oltre che tattica. È una squadra che ha giocato davanti con una leggerezza impossibile. E quindi la Juventus approfitta anche delle disgrazie altrui. 9 punti sul Napoli e 14, se non sbaglio, sulla sì, Roma. Sì, ce ne sono 14 sulla Roma. Che dovevano essere le squadre che puntavano lo scudetto. E si sono fatte male da solo. La Juventus ha continuato in maniera perfida la propria marcia. Oggi ha perso un giocatore importante, ma ha perso soprattutto la nazionale di Conte, credo, per l'europeo un giocatore. Sì, non abbiamo ancora notizie definitive. Il discorso è quello. Lo raccontiamo. Lo raccontiamo agli amici a casa, magari non tutti l'hanno visto. Sì. Quarto d'ora del primo tempo c'è stato un contrasto all'apparenza banale tra Marchisio e Vasquez. Sono andati due sul pallone. Il ginocchio sinistro di Marchisio è rimasto un po' puntato sul terreno, un po' non so come dire, incastrato in questo corpo a corpo con Vasquez. Si è leggermente girato, non in maniera visibilmente eccessiva, però in maniera innaturale, ma Marchisio è rimasto a terra, soccorso con la barella, uscito, notizie di conferma della distorsione, ma questo era evidente anche guardando le immagini. Non c'è ottimismo, questo è quello che filtra da questo Torino. Questo è un problema per Conte più che per Allegri. Sì, certo, fine stagione. Appunto, secondo me così a naso, poi spero di essere smentito, non va agli europei. Questo cosa significa per la nazionale? Ricordiamo che abbiamo anche Verratti che da più di 2 mesi non gioca. Significa che siamo nei guai, perché abbiamo un attacco debolissimo. Io ieri sera, guardando Icardi, pensavo a Tata Martino, che ha Icardi, Tevez, Di Maria, Messi, Higuain, Lavezzi, Dybala e Conte, che ha Pelé, Zaza, riserva, Eder, riserva, Insigne, sostituito anche ieri sera. Ecco, questa è la differenza, la forbice come si apre improvvisamente. Quindi l'assenza di Marchisio in un centrocampo che, ahimè, spero non faccia ricorso a tale Thiago Motta, è un problema grosso per noi. Ma posso lanciare una provocazione? La lancio a voi due e la lancio anche a casa. 800 24 00 24, oppure sms whatsapp 349 238 6666. Prenotatevi, perché questo numero resta aperto fino alle 19 per parlare anche di Totti, del Napoli, perché anche su Totti c'è molto da dire. La provocazione è questa: dovesse saltare Marchisio con Verratti che non sta benissimo, vedremo come verrà a giugno, si può ripensare a Pirlo? penso di sì. Io credo di no. Si deve ripensare a Pirlo? Io penso di sì. Io credo di no, perché fuori dai giochi, fuori, credo che si siano già parlati Conte e Pirlo. No, ora, si sono parlati. Però in altre condizioni, ragazzi. In altre condizioni, con Marchisio, con tutti gli altri. Il problema è che c'è bisogno di qualcuno, anche in un'emergenza c'è bisogno anche di qualcuno per lo spogliatoio, per la partita, nel senso l'uomo di esperienza. Guardate quello che ha fatto Totti oggi, al di là del gol che ha fatto nell'altra partita. Qui bisogna che gli allenatori, compreso Antonio Conte, si rendano conto che certi giocatori, ma Conte lo sa bene, a differenza di Spalletti, sono molto importanti per l'ambiente, molto più importanti degli stessi allenatori. E quindi Pirlo può essere importante non per vincere l'europeo, ma può essere importante in un momento in cui questa squadra non ha leader, non ha uomini di grande personalità. E per fortuna di Dio ci siamo liberati di alcuni pesi come Cassano e Balotelli, per fortuna. Ma guarda, io mi porterei anche Totti, vedi un po' tu. No, certo, ho scritto questa cosa qui 3 settimane fa come provocazione fino a un certo punto. Giocatori di questo tipo in un torneo così breve ma importante possono essere decisivi anche per 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, il tema è che secondo me, se davvero perdiamo Marchisio, ripeto, si teme la rottura del crociato. Incrociamo le dita fino a domani. Si teme la rottura del crociato. Insomma, il timore è concreto, perché le notizie che arrivano da Torino non sono buone. Pirlo non è nemmeno più l'uomo dell'ultimo quarto d'ora. Pirlo comincia a servirci, se è in condizioni accettabili dal punto di vista fisico. Poi non si capisce bene come sta Verratti. Pirlo diventa assolutamente necessario. Ci sono giocatori, ragazzi, che stanno crescendo, che sui quali Conte pensava e poi non ha avuto il coraggio di convocare in nazionale, di lanciarli in nazionale. C'è un ragazzo che gioca nel Bologna, che è Don Sa, che è un ragazzo sul quale penso in futuro il prossimo allenatore nazionale dovrà lavorare. Questi sono uomini, avete visto oggi Lemina, senza essere un fuoriclasse, un fenomeno, è stato comunque importante al posto di Marchisio. Lemina era stato dato per spacciato dai medici della Juventus e non era stato inserito nella lista UEFA, non ha giocato a Monaco di Baviera, gravissimo errore, proprio perché non era in lista. Poi è tornato, è guarito, questo problema, la cartilagine del ginocchio, pare superato, quindi c'è bisogno anche di un po' di coraggio. Conte dovrà inventarsi qualcosa. Sì, ci sarebbe anche Jorginho comunque. Sì, ma qui anche quello è un mistero buffo. 2 convocazioni, 1 minuto di partita. Appunto. Appunto. Sì, ma poi ripeto, se ti viene meno Marchisio, adesso non giriamo intorno alla questione, Marchisio è il regista che la Juve ha battezzato per il dopo Pirlo, è il regista che Conte ha battezzato per il dopo Pirlo, sono giocatori diversi, ma però ha un giocatore di statura internazionale, se ti viene meno lui, se hai qualche dubbio sulle condizioni di Verratti, io lo ripeto, Pirlo diventa non più nemmeno l'uomo spogliatoio dell'ultimo quarto d'ora. C'è il rischio che si debba davvero ripensare a Pirlo come perno della nazionale che va all'europeo, perché lo ripetiamo, le notizie che vengono da Torino è sospetta rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Marchisio. Ma conoscendo Marchisio, se lui si accascia, se piange, se esce così con le mani da testa, non si tratta di un infortunio leggero, è qualcosa di serio. E la rottura del legamento crociato significa che Marchisio tornerà a giocare a ottobre. Sì, torna nella prossima stagione. Sì, sicuro. Ci sono altri esempi. C'è un amico che dice Jorginho, Bonaventura o Parolo, le riserve le abbiamo. Questi tre insieme non fanno una gamba di Pirlo, anche in condizioni Parolo va agli europei. Jorginho io comunque me lo porterei. Allora aspettate, vi fermo perché c'è il traffico. Rubo ancora 1 minuto di pazienza a Tony, perché poi se riusciamo prima di Allegri ci sono anche 2 amici che hanno già chiamato, ma volevo fargli sentire una cosa di Spalletti su Totti per capire che cosa ne pensa lui. Prima però c'è il traffico. Non è stato sanzionato, altro bombone abbastanza inquietante. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, poi avremo 2 ampie pagine oggi. Una, il processo al Napoli, che è completamente svanito. Secondo me ci sono anche domande da farsi su Sarri, anche sul progetto in vista dell'anno prossimo. L'altra su Francesco Totti, voglio però anticipare con Tony Damascelli un giudizio. Mi fate sentire Spalletti dopo il 3-3 a Bergamo. per me non cambia niente. Se lui fa il giocatore, fa il giocatore, se vuol fare un'altra cosa, fa un'altra cosa. Il gol, sempre detto, se lui calcia una palla, fa gol, poi conta la corsa, conta la disponibilità, contano contrasti, non conta solo un gol, contano tante altre cose, conta prendere il pallino in mano della partita. E la squadra ha vinto 9 partite giocando anche senza di Totti. Oh, mi aiutate a capire perché benissimo. Si deve in tutti i modi ridimensionare quello che ha fatto Totti, che non ha fatto niente di straordinario. Però oggi ha salvato la Roma. Oggi ha salvato perché la Roma. È più importante di Spalletti. E poi bisogna dire che la Roma è arrivata seconda in campionato anche senza Spalletti. Ma con Garcia. Ribadisco, quando un allenatore pensa di essere più importante dei calciatori, anzi di alcuni calciatori, vuol dire che forse sta svoltando, vuol dire che sta svoltando e non ha una dimensione esatta di quello che sta accadendo. E Spalletti non è una sorpresa per me, quando c'è da gestire la difficoltà va insieme, va in crisi, è stato espulso oggi per un qualcosa avrà detto o fatto. Sì, anche se la soglia di tolleranza degli arbitri con gli allenatori quest'anno si è particolarmente abbassata. Anche la soglia di tolleranza degli arbitri nei confronti dei comportamenti degli allenatori e dei calciatori, perché ragazzi, basta girare, voltare, cambiare canale, vedere una partita del campionato spagnolo e inglese, l'arbitro non può essere assediato anche per un fallo laterale. Insultato, assediato. Oggi abbiamo visto le follie di Leicester West Ham, cioè, ci sono state proteste, perché ci sono state, ma ci sono. contenute. Senti, ma Tony, il secondo posto del Napoli a questo punto secondo te è in pericolo? E anche il terzo della Roma, mettiamo tutto insieme. No, sì, bravo, difatti l'Inter si sta mangiando le mani, le dita, i gomiti per quello che ha buttato via, quando invece doveva tutelare il patrimonio. Credo anche fino alle spalle. In casa, sì, esatto. Però inutile, no? Anche questa non è una novità per quanto riguarda l'ambiente nerazzurro, quella di rimproverarsi e di non pensare solo ai guai altrui. E nel caso specifico l'Inter ha ancora la possibilità di mettere le mani addosso al terzo posto, sicuramente, perché vedo che la Roma va in difficoltà. E Napoli-Roma sarà la partita chiave, sarà la partita decisiva. Il Napoli senza Higuain è un'altra squadra, non ha un attaccante che può sostituire Higuain, perché con Manolo Gabbiadini non si può fare un parallelo, e penso a Conte, per qualcuno Conte dovrebbe chiamare Gabbiadini, pensate un po' a che livello siamo arrivati. E il povero Insigne da solo non può risolvere i problemi di questa squadra, ha perso Higuain nel momento topico, nel momento decisivo, e penso che la partita con la Roma, partita nella quale tornerà Higuain, sarà la chiave per il secondo posto in classifica. Io penso che il terzo incomodo, vale a dire l'Inter, può approfittare dei problemi altrui. Sono due squadre con i fili scoperti, sia il Napoli con la Roma, sia la Napoli addirittura in silenzio stampa, che ritengo una di quelle fughe abbastanza sciocche, inutili, che appartengono al passato, e oggi che si fa comunicazione, fare un silenzio stampa è un autogol clamoroso, soprattutto nella situazione del Napoli. La Roma, ribadisco, ha questo allenatore che è il terzo papa di Roma, pensa lui di essere il terzo papa di Roma, e ha una situazione a livello societario tutta da chiarire, perché Pallotta una volta o l'altra dovrà dire la verità sia su Totti sia sul futuro di questa società a livello di investimento. Certo, grazie Tony. Ciao Tony. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Tony Damascelli. Ovviamente 800-24-0024. Sì, il primo è il primo che noi conosciamo. Almeno lì fermiamoci. Allora, aspettando Allegri, aspettando ancora notizie da Torino, ripeto, c'è il sospetto di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Marchisio, il che significherebbe l'addio all'europeo. Oggi il Parma è tornato in Lega Pro, quindi oggi è una giornata bella per tutto il calcio italiano. Andrea da Torino. Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione sul recupero della Juventus, che sono juventino. Andrea, tu sei col viva voce o con qualcosa di simile? Hai ragione. Allora, togli il viva voce, togli la cuffia, togli tutto quello che hai e andiamo. Prego. Dicevo, il recupero della Juventus, secondo me, la Juventus ha fatto tutte queste partite, ma il demerito grosso è delle squadre che venivano prima della Juventus, dopo la partita del Sassuolo, perché ho fatto un calcolo, che soltanto nel girone, nella fine del girone d'andata, in 9 partite la Juventus ha recuperato 7 punti al Napoli, 9 all'Inter, 16 la Roma e 10 la Fiorentina, in 9 partite. E beh, ha vinto sempre, non è difficile. Quindi, secondo me, se queste squadre avessero fatto qualcosa di meglio, anche la Juventus, secondo me, non so se avrebbe fatto il filotto poi di vittoria, perché avrebbe avuto più pressione. Guarda, Andrea, sì, io sono convinto che il Napoli abbia fatto una stagione straordinaria. Sì, il Napoli certamente, ma la Juventus ha fatto qualcosa di meraviglioso, senza precedenti. Quindi 22 vittorie, un pareggio, 22 vittorie, un pareggio. Come, 69. Come fai a fare la corsa su una squadra che viaggia con questi ritmi? È praticamente impossibile. Ma infatti io credo che il tema sia un altro sul Napoli, e cioè visto il modo in cui senza Higuain e in questo finale di stagione il Napoli è svanito, viene da chiedersi intanto se De Laurentiis si può permettere di metterlo sul mercato in estate. E poi se l'anno prossimo questo Napoli è più vicino o più lontano rispetto alla Juventus su quest'anno. Dipende dai soldi. Saluto Gigi Cagni, ciao mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sentiamo però Luciano da Roma, che mi dà un po' in attesa. Luciano. Salve, buonasera. Eccoci. Ah, guardi, a me sarebbe piaciuto molto parlare di calcio, però voglio dire, quando si fanno delle cose poi bisogna anche accettare delle critiche. L'argomento è Toni Damascelli, voglio dire, va bene che voi contate sul fatto che magari il tempo cancella tutto, la gente non ricorda, ma insomma Toni Damascelli a Radio 24 veramente non ti piace, veramente no. complimenti. La prossima magari invitate pure Moggi, così. Ma l'abbiamo anche già invitato, qual è il problema? Ah no, diciamo? Non sono nessun problema. Io ricordo tutte le cose che venivano trasmesse all'epoca quando andavano di moda le intercettazioni, le grandi risate con gli arbitri chiusi nel ma ne abbiamo parlato per anni, nel banco per 30 minuti, parlato per anni. 24, è fantastico. Luciano, facciamo così, siccome tu hai un minuto invece per dire quello che vuoi, anche di calcio, questa te l'abbiamo fatta dire, noi ovviamente invitiamo chi vogliamo, quindi se ti va è così, se non ti va è così lo stesso, però dici cosa pensi di oggi, della giornata, prego. La giornata si commenta da sola, perché la Juventus non ha avversari di fatto, e non ci sono polemiche sui rigori, sul Napoli o su qualsiasi altra cosa possibile. Io non sono juventino, però è lì che lo dimostrano, anzi a tutti. È partita con 12-13, praticamente ad handicap, un handicap autoinflitto, perché non ha potuto fare la preparazione estiva in un certo modo, gli hanno levato i tre perni, vabbè lo sappiamo, però poi appena ha trovato la quadra, appena ha messo Murillo, insomma, un po' in ordine la situazione. Quindi tutto è tornato alla normalità. Tutto è tornato alla normalità. Grazie Luciano. Mister Cagni, sì. Eccoci. Si deve fare una domanda al Napoli, visto questo finale di stagione, non tanto magari il rimpianto di aver perso uno scudetto, se la Juve va così veloce c'è poco da fare, ma l'idea che forse rischia di sopravvalutare il valore di questa stagione in chiave futura? No, secondo me no, secondo me questa è la stagione più importante del Napoli, nel senso che deve capire dove hanno sbagliato e costruire l'annata futura come ha fatto la Juventus. La Juventus ha fatto 2-3 anni veramente, parlo prima di Conte, in cui ha dovuto soffrire molto, poi con la qualità, con la programmazione hanno costruito la Juventus di oggi. E questo devono fare le squadre. Se poi continuano a cambiare allenatori, continuano a cambiare tanti giocatori, sto parlando delle altre squadre. E sono d'accordo con quello che dicevamo prima, che sì, la Juventus ha fatto una cosa eccezionale, ma gli è stata permessa, perché ero uno di quelli che all'inizio dicevo, ma c'ha 5 squadre là davanti. Sì, che era impossibile pensare ci fosse il margine per recupero. Ci voleva un'impresa di questo tipo, ci voleva qualcosa di straordinario, come la Juventus è stata brava a fare, no? La Juventus ha fatto qualcosa di straordinario, ma veramente le altre hanno fatto di tutto per farglielo fare, perché poi ci sono stati anche gli scontri diretti. Voglio dire, la Juventus era una squadra che in quel momento doveva trovare appunto l'assetto giusto, doveva trovare tante cose giuste, anche la preparazione fisica probabilmente. Cosa perde? Non ne hanno approfittato. Io credo che il Napoli, che la Juventus abbia vinto lo scudetto nel confronto diretto con il Napoli, perché alla fine il peso specifico era quello. Era quello che stavo dicendo. Poi bisogna essere capaci di vincere, ed è lì che secondo me l'insegnamento più grosso per il Napoli. Cioè, io vado a Torino con un punto di vantaggio, io non perdo la partita. Certo. Non la vinco, certo, ma non la perdo. Ma la giochi anche in un modo diverso da come ha fatto mister? No, gli ultimi 10 minuti sono stati in cui hai voluto vincere per forza e non hai capito bene chi hai davanti. Queste sono le cose che accadono nella propria carriera calcistica, ma nelle squadre, degli allenatori, è successo a me, è successo a tanti, che tu sei convinto di una cosa e invece poi non calcoli bene qual è la forza dell'avversario e fai un errore di calcolo proprio, che non faranno l'anno prossimo. Ecco perché dico che quest'anno è stato un anno importante per il Napoli. Sì, ma anche unico. C'è il rischio che ad agosto il Napoli riparta più lontano dalla Juve di quanto sia stato mai in questa stagione. Ma bisogna vedere cosa succede sul mercato, perché Higuain potrebbe essere ceduto, ma ovviamente se verrà ceduto per una montagna di soldi, e quindi il Napoli verrebbe ristrutturato, quindi è molto difficile dire cosa... Ma tutte le immagini, mister, un Napoli senza Higuain l'anno prossimo? No, io sto pensando a De Laurentiis, che ha detto delle cose, che non distruggerà niente, non farà niente, e su questo costruirà. Vediamo come se sa come fare, se fa le cose giuste, dovrà mettere a disposizione dell'allenatore dei giocatori adatti per poter vincere lo scudetto. Tu lo richiameresti Pirlo in nazionale al posto di Marchisio, se come si teme venissero confermate le notizie della rottura del legamento? No, è proprio adesso, stavo guardando la televisione, è confermato che si è rotto il legamento anteriore, quindi sono una cosa di 6-7 mesi. A parte che Claudio è magro e quindi poi ha una grande carica agonistica. Aspettate che c'è Allegri ai microfoni di Sky, lo sentiamo insieme, prime battute. Che rischia di star fuori per parecchio, stanno facendo gli esami, speriamo che il responso non sia quello che tutti ci immaginiamo. Per il resto la squadra ha fatto una buona partita, anche se paradossalmente nella partita di oggi abbiamo subito più occasioni al gol che nelle precedenti 15, e quindi su questo bisogna migliorare, perché i campionati, fino a che la matematica non ti dà la certezza, non sono vinti. Siamo alle quisquiglie, come diceva Totò, anche perché poi dopo abbiamo due partite con Lazio e Fiorentina, che sono due squadre che lottano per l'Europa League. Io una curiosità prima di sentire gli altri, insomma, sull'aspetto tattico, sugli attaccanti che subentrano. Zaza entra, a volte vuole strafare, si becca l'ammonizione. Vabbè, qui siamo per davvero ai dettagli, alle quisquiglie, come diceva Totò. No, invece su Marchisio stanno facendo gli esami, abbiamo sentito Allegri. Beh, il problema non è tanto di Allegri, che ha già vinto lo scudetto, quanto di Conte che... Ma come si ovvia, Cagni? Come si ovvia? Posso fare una... Il Parma in Lega Pro. Sì, abbiamo raccontato. Adesso sto... io stavo guardando adesso Scala. Che... non lo so, è difficile. Cioè, Verratti, io punterei su questo giocatore, però non sta facendo neanche molto bene al PSG. No, sì, perché è fuori da un po' per infortuni, esatto. Anche lui. Ha la pubalgia. Sapete che la pubalgia è un problema anche nel momento del rientro, è comunque un malanno, insomma, insidioso. No, il tema è se non serva uno come Pirlo, ma anche per inserire in quel centrocampo lì, in quella rosa, a questo punto un giocatore di esperienza, con un passato internazionale, in una rosa che oggettivamente già era di scarsa qualità, quella della nazionale italiana. Sono i giocatori italiani, quelli che ci sono adesso. Questo è il calcio italiano e la nazionale rispecchia il calcio italiano, l'ha detto anche Antonio, quindi è la verità. Se noi non facciamo qualcosa per frenare questa discesa, che secondo me è una discesa per ora, visto che non fa niente nessuno, senza freni, il nostro calcio sarà sempre peggio a livello europeo. Quindi bisogna che ricominciamo, bisogna che costruiamo qualcosa, bisogna che progettiamo qualcosa di diverso, ma soprattutto, secondo il mio punto di vista, no perché è il mio mestiere, ma la rivalutazione dell'allenatore oggi è determinante. Invece sembra che i presidenti, gli allenatori possono servire o anche no, quindi è un discorso abbastanza difficile. Ma fra Totti e Spalletti tu con chi stai? Spalletti sempre, ma alla morte. Ma sai che fare l'allenatore è una cosa non facile, e lo ripeto, i presidenti invece sono convinti, negli ultimi 10 anni, se vedete quello che è successo, forse anche 15, il presidente pensa che l'allenatore non sia indispensabile, e quindi invece è il contrario, proprio perché non ci sono più giocatori personalità, non c'è più il leader nelle squadre, sia tecnico che morale, e quindi è l'allenatore che deve fare tutto, invece la figura dell'allenatore è stata sminuita proprio da tutti questi tutti i direttori, presidenti che sono convinti di poter fare l'allenatore. Li senti come parlano. Sì, anche se forse la posizione di Spalletti su Totti è un po' particolare, perché anche oggi, dopo che gli ha rimesso in piedi una partita, dire Totti non ha fatto nulla dà un po' l'idea che ci sia un pregiudizio. Però dobbiamo fermarci qui perché c'è la pausa. Io ringrazio Gigi Cagni, grazie mister. Ciao mister, grazie a voi. 800 24 00 24. Allora aspettiamo ancora notizie da Torino e poi dopo la pausa lo apriamo il dibattito su Francesco Totti, la Roma, Spalletti, Pallotta, non so da chi parte state voi. Agghiacciante quello che dicono. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. L'apertura verso Totti, Totti! Totti! 3-3. Alla fine con quel 3-3 ha salvato la partita. Cosa vogliamo dire di Totti? Non ha salvato niente. La partita l'ha salvata la squadra. Lui ha fatto gol come deve fare, ha calciato una palla in porta. And I'm waiting for you. With or without you. Devo dire bravo al mister che guarda la settimana, i comportamenti, lo sta facendo giocare con pieno merito e Francesco sta rispondendo. Ma cambia qualcosa nel senso del rinnovo contrattuale? Ma questo non lo so, questo è il calcio impescrutabile, io non credo che cambieranno le cose, però bisogna dare atto al giocatore e all'allenatore che lo fa giocare, che sta facendo cose importanti in questo momento. Per me non cambia niente. Se lui fa il giocatore, fa il giocatore. Se vuoi fa un'altra cosa, fa un'altra cosa. Il gol, sempre detto, se lui calcia una palla, fa gol. Poi conta la corsa, conta la disponibilità, contano contrasti. Non conta solo un gol, contano tante altre cose. Conta prendere il pallino in mano della partita. E la squadra ha vinto 9 partite giocando anche senza di Totti. Io dico subito, trovo surreale che Spalletti dica, ma Totti deve dirci che cosa vuol fare, se vuol fare il calciatore, se vuol fare altro, più di dire da mesi che vuole continuare a fare il calciatore, io non so che cosa deve fare. E aggiungo, ho preso in prestito una delle canzoni più belle della storia, sì, della assolutamente, musica, assolutamente. E aggiungo, se per mesi Spalletti ha dipinto Totti come un ex calciatore che non corre, non contrasta, non anche ritorna, oggi l'ha dipinto come un ex calciatore, e poi da una settimana a questa parte lo chiama nel momento della difficoltà e ne ricava qualcosa già contro il Bologna, oggi il gol del 3-3 a Bergamo, per coerenza quantomeno dovrebbe, io non dico scusarsi, ma spiegare se Totti non gli abbia già chiarito che è un calciatore, ammettere quantomeno che Totti è ancora funzionale a quando sta facendo la Roma. La conferma a Pallotta, io non so come la pensa Luca Telese. Ciao, Luca. Mobbing addirittura, mobbing nei confronti di Totti, perché poi qualcuno sorriderà e dirà è pagato tanto, ma il mobbing è esattamente valutare una persona, svilire il suo lavoro. Lui è stato dichiarato da Spalletti per un rancore pregresso, immagino un ex giocatore, invece è lì, è un pugno di minuti, 2 gol, 2 assist nelle ultime 2 partite, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che io l'ho detto prima con Tony Damascelli, io me lo porterei perfino agli europei, come giocatore tattico, anche come giocatore da 5 minuti, 10 minuti da situazioni speciali, cioè è un giocatore a cui non puoi rinunciare e Spalletti ha rinunciato anche troppo al talento di Totti. Ma tu ti rendi conto di giocare con Cadaverone adesso, voglio dire, chi è Cadaverone? Chi è? Cadaverone, no? Ecco, Geco. Bravo, hai capito? È una cosa pazzesca, quanto è spompo su ogni palla, quante ne perde, gli stop che fa a 10 metri e non tiene la palla, i tiri svirgolati, il tiro sbagliato a porta vuota, 2 per renderci più contenti. Io non... Beh, se poi c'è mio figlio che invece... 3, ti dice 3! 3-3. Sì, un dramma familiare. Ma perché Spalletti fa la guerra a Francesco Totti? Per due motivi. Uno, che lui aveva un dente avvelenato e il mister di Certaldo ha un grande carattere che lo aiuta, ma anche un caratterino che un po' lo frega. E quindi lui questa cosa ce l'ha qua. Quell'addio, lui lo sente un po' responsabile. La seconda cosa è che lui in qualche modo è andato in America e non c'è una prova, ma il pur parlé con la società è stato: ma io che devo fare con Totti? Guarda, se vai giù duro, vai duro, non ti preoccupare. E a questo punto lui è andato, perché la società americana delocalizzata con la testa altrove soffre ad avere uno come Totti. Sì. Cioè uno che se dice una parola ti cambia la linea. Sì. Poi lui ha fatto tutto vero. Secondo me una mezza trappola ha subito, perché voglio dire adesso anche lì c'era un addetto stampa della Roma che secondo me informò molto. Ma quale errore ha fatto? Tu dici la famosa intervista alla Rai, ha fatto benissimo, ha messo tutti davanti alle proprie responsabilità. Perché noi tutti possiamo avere anche il dubbio che Totti non sia più un calciatore nel pieno delle sue forze. Ed è così. Ma far passare che Totti non sia più nemmeno un giocatore funzionale alla Roma, ad esempio come lo è stato nell'ultima settimana in due occasioni, io credo che Totti abbia tutte le ragioni di questo mondo a presentarsi e dire: no, guardate, io sto bene, per quanto può star bene un ragazzo di 38-39 anni, che ha una classe immensa, e per fare questo io sono ancora un calciatore, no, lo posso fare anche questo, l'anno prossimo. Ma Totti può cambiarti le partite da fermo, può cambiarti le partite come giocatore tattico, può cambiarti le partite come ingresso nell'ultimo quarto d'ora, ma i fatti lo stanno a dimostrare. Assolutamente sì, andava, guarda, non per citarmi, ma andava delpierizzato e non è stato fatto, e si sta sprecando un patrimonio della Roma, non un patrimonio personale di Totti, si sta sprecando un patrimonio della società. Avrebbe aiutato, risolto moltissime partite che sono state incerte, avrebbe risolto questa partita sicuramente con grande capacità se avesse avuto più tempo, tant'è vero che ha fatto un gol, voglio dire, e l'ha fatto proprio nel modo giusto, lo cercava da due domeniche. Vi ricorderete quel tiro all'incrocio dei pali che domenica scorsa, che l'altra partita in cui ha giocato, è stato fermato proprio per miracolo. Insomma, perché tanto accanimento? È un simbolo. E il calcio che combatte i suoi simboli più belli è una cosa triste. Guarda, ci sono gli amici da casa che scrivono: uno a Spalletti rode, però adesso la squadra deve stringersi intorno all'allenatore. Un altro che dice: la risposta di Spalletti è acida e astiosa, non ha fatto una gran figura. E poi Steve via WhatsApp: ma siete ciechi, Totti è bolso e non corre più. Il problema è che anche non correndo in 20 minuti qualcosa può fare di importante. L'ha fatto oggi, l'ha fatto, ripeto, lunedì sera Roma-Bologna, mettendo Salah, un pizzichino in fuorigioco, ma mettendolo davanti al portiere. Però la domanda è un'altra: questa settimana in qualche modo metterà Pallotta e la Roma davanti a un fatto compiuto? Cioè che almeno un altro anno anche così Totti deve fare il calciatore e non il dirigente. Non credo cambi nulla, non credo che queste due partite possano cambiare la verità dei fatti. C'è una decisione che è stata presa. È già stata presa, certo. È un'esecuzione di una sentenza. Sì, hai ragione Luca. Esecuzione di una sentenza che è già stata stilata, che è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale giallorossa, e quindi Totti per quel documento è già un ex giocatore. Qualunque cosa faccia, facesse anche un gol a partita. Anche se fa 10 gol hanno deciso. Hanno e già tornare deciso. Indietro è più faticoso. E ora gli diranno: non lo far più mettere in campo, non gli far toccare più terra. Molto triste, molto molto triste. Ascolta, c'è il traffico, vi chiedo un minuto di pazienza, perché poi vi voglio far sentire che cosa ha detto Spalletti su Dzeko depresso, perché c'è Totti, ma prima c'è il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Cosa sta succedendo? facendo. Probabilmente un po' troppo sensibile a tutti i discorsi che si fanno noi. Lui non è abituato a tutti i discorsi e ai dualismi che si vogliono fare noi. Si antepone sempre poi a qualchedun altro, e se non è buono deve andare via e perché deve giocare quell'altro. E non è così, possono giocare tutte e due come hanno fatto oggi. Allora, è possibile che Dzeko sia depresso, condizionato dal dualismo con Totti? Io non so cosa pensate voi, mi sembra un po' strana come spiegazione, Carlo, Luca Telese. Sarebbe veramente una fragilità caratteriale da giocatore di secondo così livello. Male dall'inizio del campionato, con Totti, senza Totti, con El Shaarawy, prima con Gervinho, con chiunque. Dzeko sta giocando male sempre. Adesso il dualismo con Totti è un'invenzione di fantasia quasi oscena. Poi, magari dire, questa non è la squadra per lui, Luca. Secondo me non è un brocco. L'offesa di questa frase è in quel lancio meraviglioso che Totti fa da 25-26 metri di prima intenzione. Lo lascia solo, smarcato, davanti al portiere e Dzeko la butta fuori. Cioè il nuovo ruolo di Totti è quello di un giocatore che sta dietro le punte, che serve e rifinisce, quindi Dzeko dovrebbe ringraziare se ha uno come Totti, non subirlo. Questo possiamo immaginarlo, dato che Totti non gioca mai, cioè è una supposizione, no? È quel poco che abbiamo visto. No, ma a parte questo, dico, quando Totti miracolosamente arriva in campo, serve Dzeko, non il contrario, non ruba palle a Dzeko, non ruba la scena a Dzeko, no? Sì, ma poi vogliamo dire che se un attaccante spara in curva a porta praticamente vuota da 5 metri, stare a sostenere che soffre il dualismo con Totti sono stronzate, dai. Dove deve soffrire il dualismo con Totti? Totti è una riserva, entra in campo praticamente mai. Dove sta questa sofferenza, questo dualismo? Ha giocato 6 partite e forse 7 partite, aveva fatto 14 minuti in 2 mesi prima di Roma. Di che dualismo stiamo parlando? Ma per favore. No, una follia. Guarda, fa quasi rabbia. Dispiace. Grazie Luca. Ciao Luca. Ciao. Grazie. Ti abbraccio. Grazie Luca Telese. Fratelli e sorelle, sono venuto qui per richiamare l'attenzione del mondo su questa grave crisi umanitaria e per implorarne la soluzione. Però questo non è il GR. Il GR arriva fra una decina di minuti. Questo dualismo deve finire. Gli europei profughi, ma è tutta roba da GR. Dovete non niente. Ascoltare Francesco. Sì, ma noi l'ascoltiamo sempre, Eminenza, sempre. Papa Francesco. Ma Santo no, padre, ma no, Santo io padre. Mi riferisco a Francesco. Totti Francesco. Ma cosa Totti? È il capitano della Roma. Cosa c'entra Totti e con la storia? E dobbiamo finire con questo dualismo. Sì, ma cosa c'entra il dualismo? Qual è il dualismo? Quale dualismo? Con chi? Voi non avete capito una massa di tamburo di niente. Sì. Mi riferivo al dualismo tra Totti e Cadaverone Dzeko. Non si può dire Cadaverone Dzeko, però comunque abbiamo capito si che anche può dire, ma il dualismo non esiste. Come vescovo di Roma, io ecco propongo Francesco Totti, dopo il gol di oggi, santo subito. Cantiamo tutti insieme. Ma cantiamo cosa? Ma cosa dobbiamo cantare? Ci sono gli ascoltatori. Capuano, se modernizzi un poco. Sì. E adesso tutti insieme cantiamo. Sì. Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un capitano. Bravo, Gianni. Intanto, il Signore te benedica. Anche sua santità, grazie, anche sua santità. Ci sono due amici da casa. Sì, ci sono due amici da casa, a cui ricordiamo che al di là delle parole che abbiamo sentito di Spalletti, pare sia stata anche ci sia stato qualcosa di più. Scrivono i siti una lite pesante. Non è stato sereno post partita di Atalanta-Roma. Spalletti e Totti avrebbero avuto un diverbio poco prima di rientrare negli spogliatoi davanti agli occhi di alcuni testimoni. Non è ancora chiara la scintilla, forse una parola di troppo del capitano oppure un riferimento mal digerito dall'allenatore. Segnalato molto agitato al rientro negli spogliatoi nei confronti dei propri giocatori. Sta di fatto che il livello di tensione sarebbe salito alle stelle. Non trova conferme al momento il fatto che il litigio sarebbe sfociato in un contatto fisico tra i due, di sicuro le dichiarazioni post-gara di Spalletti non sono state concilianti nei confronti del capitano. E queste le abbiamo sentite. Sì, queste, no? Le abbiamo sentite, c'era poco da interpretare. 800 24 00 24, poi noi restiamo qui fino alle 19. Manca solo che si mettano le mani addosso. Arriva anche più Luigi Pardo, che era a Bergamo oggi, gli chiederemo se è tra i testimoni del confronto Spalletti-Totti. Vincenzo da Napoli, Vincenzo. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo intervenire. Vabbè, sta con Totti o con Spalletti? Dai, subito. Io Totti. Sta con Higuain. Sportivo, no vabbè, Higuain. Sì, vabbè, ma a parte Higuain, Totti o Spalletti? Lei mi ha fatto una domanda, Totti o Spalletti, io dico Totti, da sportivo. Perché oggi in cartellone c'è questo match, Totti contro Spalletti. Secondo me, cioè, la realtà dice Totti. Quello, anche se dorme, fa gol. Se sta lui alla porta, io ho visto il gol che si è mangiato Zeko, signori, mamma mia, la roba, vabbè, comunque volevo ringraziare. No, c'è un amico perché... che scrive, comunque da due partite gioca Totti e da due partite la Roma non vince, amico mio, si può pensarla come si vuole, noi per carità, vabbè, pensiamo in una maniera. Ma la Roma ha vinto anche senza Totti. No, ma soprattutto Totti è entrato Roma-Bologna con la Roma sotto, che perdeva. E Atalanta Roma. Roma con la Roma sotto. Ecco, quindi adesso questo è risibile, amico mio. No, volevo senza farvi complimenti perché, prego, Vincenzo. Vabbè, a parte avete dato i meriti alla mia squadra che gioca un bel calcio. Per quanto riguarda le convocazioni, noi tutti sappiamo che la nazionale non gioca col 4-3-3. Forse, perché non abbiamo ben capito come giocherà, eh? Vabbè, se gioca col 4-3-3, io credo, ma non perché sono tifoso del Napoli, Jorginho. Ma io me lo porterei al volo, tutta la vita Jorginho. Io da sportivo mi dispiace per l'infortunio da Marchisio, perché tutti sappiamo, diciamo, non abbiamo molta simpatia per quella squadra lì, però da sportivo mi dispiace. Certo. E sempre da sportivo noi tutti sappiamo chi, diciamo... ama un po' il calcio. Ma il problema è come sta Verratti, perché questo è il punto. Verratti ha la pubalgia, è fuori già da diverso tempo. Da 2 mesi. E, insomma, Jorginho è stato chiamato da Conte, che praticamente non l'ha fatto giocare. Mi sembra, suona come una bocciatura. Non so se l'infortunio a Marchisio e i problemi fisici di Verratti possono cambiare qualcosa nelle gerarchie dentro la testa. Cambiano, credo, molto il panorama. Grazie Vincenzo. Pietro da Bergamo. Pietro. Ciao, buonasera a tutti. Allora, una cortesia, stiamo creando su una serie di argomenti, il Napoli, la Roma, la Nazionale, una serie di alibi, non c'è Verratti, ma Totti così, allora, cerchiamo di sbloccare un po' questa situazione, vale per la Nazionale, vale per il Napoli che ha sempre qualche cosa che gli va contro, i perseguitati, oppure Totti che è contro Spalletti. Spalletti sta cercando di portare avanti, di fare una svolta rispetto a 20 anni che è andato in un certo modo e deve guardare al futuro, altrimenti rimaniamo tutti impallati. Sì, perfetto, però che... senza danneggiare la squadra, secondo me, senza danneggiare quello che questa squadra potrebbe avere con Totti in campo, anche part time, non dico titolare. Però il discorso è questo, cioè in via pregiudiziale dire Totti non lo voglio più, non mi serve più, voglio che faccia dirigente, non è più un giocatore di calcio, conta la corsa, contano i contrasti, non conta quando fa gol. Insomma, mi sembrano tutti i discorsi che sanno di pregiudizio. Due volte ti trovi sotto, chiami Totti, lui senza la corsa, senza i contrasti, senza tutto quello che vuoi, ti cambia la partita. Allora, cosa ti costa dopo dire... è vero, è successo, se è vero questo, che è stata una lite all'ingresso degli spogliatoi, evidentemente c'è qualcosa di più. Ci dobbiamo fermare, c'è il GR, poi arriva anche più Luigi Pardo direttamente da Bergamo. 800 24 00 24, noi stiamo con Totti, ma in tanti che stanno scrivendo stanno con Spalletti, che è uno con le palle, vuole, come Conte con Del Piero, vero, non so come la pensate dove vuole. GR. Capo Ars, sì, sto arrivando, anche il signor Genta per tutti i convocati weekend. 800 24 00 24. Ciao Bardo, ti voglio bene. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. tutti convocati. L'apertura verso Totti, Totti! Totti! 3-3. Per me non cambia niente. Se lui fa il giocatore, fa il giocatore. Se vuol fare un'altra cosa, fa un'altra cosa. Il gol, sempre detto, se lui calcia una palla, fa gol. Poi conta la corsa, conta la disponibilità, contano contrasti. Non conta solo un gol, contano tante altre cose. Conta prendere il pallino in mano della partita. E la squadra ha vinto 9 partite giocando anche senza di Totti. Oh, mi sembra veramente parole durissime. Totti contro Spalletti. Noi ci siamo schierati, gli amici da casa, anche 8-0-0-24-0-0-24. La Lazio sta vincendo 1-0 sull'Empoli, gol di Candreva su rigore al 6° minuto del primo tempo. In tribuna c'è Pippo Inzaghi, A vedere il fratellino. Ripetiamo allora la notizia, su cui mancano ancora conferme ufficiali, ma ci sarebbero dei testimoni di un diverbio acceso tra Totti e Spalletti davanti agli spogliatoi appena terminata Atalanta-Roma. Si parla anche di un contatto fisico, manca però di questo una conferma. Poi Spalletti è andato a fare tutte le interviste, le abbiamo sentite nella prima certamente ora. C'è stato un duro attacco verbale di Spalletti nei confronti di Totti. Sì, c'è chi parla prima di forse una parolina di troppo del capitano nel post partita. Insomma, si è acceso questo diverbio tra Totti e Spalletti. Noi vi stiamo chiedendo da che parte state. 800 24 00 24. Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pier. Ciao ragazzi. Ciao, io non ho visto niente perché stavo su. In gabina di commento. Però, ma allora, ti dico la verità, le dichiarazioni di Spalletti sono state un po' esagerate. Aspetta, Pier, perché ti si sente niente. Adesso ripristiniamo. Io, ragazzi, sono fermo. Ecco qua, adesso sei tornato. Adesso sei tornato. Prego. No, e Redus, tra l'altro, da un tira di sugo cucinato in maniera meravigliosa. Va bene, chiusa la parentesi. Le dichiarazioni di Spalletti mi sono sembrate un po' eccessive, nel senso che mi fanno pensare che ci sia veramente un problema tra i due. E quindi poi questa cosa che mi stai dicendo, appunto clamorosa, che deve essere tutta verificata, ci mancherebbe altro, però sembrerebbe quasi credibile l'idea che ci possa essere stato un episodio di questo tipo. Sì, se no uno non va in conferenza stampa e dice quelle cose, Pierluigi. Io sono tendenzialmente d'accordo con Spalletti. Nel senso che io penso che uno dei problemi, tra virgolette, psicologici della Roma è quello, posizioniamola bene, di fare i conti con la inevitabile conclusione della carriera del giocatore più grande, che è il giocatore più grande per distacco della storia della Roma, perché oltre a essere più forte in assoluto, è anche un simbolo, è anche un romano, un romanista, un esempio di fedeltà alla causa, quindi non c'è neanche da discutere di questo. E questa cosa qui è una, cioè l'elaborazione di questo lutto, il fatto che inevitabilmente il tempo passi anche per lui, è il problema della Roma in prospettiva. Perché? Perché sì, è una cosa talmente bella. Tutto questo va bene, però nel momento in cui non lo usi mai, lo usi, entra e fa una cosa importante, qual è il problema di dirlo? Cioè, è entrato, ha fatto una cosa importante, grazie. Sono d'accordo con te, anche perché Totti oggi ha giocato un quarto d'ora. Ha giocato un quarto d'ora enorme, perché ha fatto il gol del 3-3 che segue un tempo enorme contro il Bologna, ha mandato in porta, ma oggi guarda anche meglio, posso dirtelo, oggi ha mandato in porta Dzeko, che se avesse avuto un pochino più di verve poteva vincere la partita. Cioè oggi Totti ha fatto un gol e un assist praticamente in poi 12 minuti più 5 di in 12 recupero. Minuti ha messo un altro bel pallone verso 17. La fine sul quale Shaarawy non è arrivato. Insomma, ha fatto una partita da 7 e mezzo di un quarto d'ora. Poi è ovvio, è evidente che quello che dice Spalletti è vero, esiste anche una fase di non possesso, esiste anche un'intensità che viene richiesta, inevitabilmente il tempo passa, cioè Totti quest'anno non è quello dell'anno scorso, che infatti ha fatto dare 8 gol in campionato, era stato, e quindi a questa velocità, a questa età il tempo passa velocissimo, e che si possa decidere che fra un anno possa essere troppo, io posso anche essere d'accordo. Sì. Però francamente le dichiarazioni continue ripetute nei suoi confronti mi sembrano un po' anche, ma secondo me giustificano anche che a Totti giri il 5 minuti se poi appunto, entri a 12 appunto, minuti e fai quello che appunto. Hai fatto perché io ho sentito fare, scusa, in 10 secondi a Spalletti delle dichiarazioni, per esempio alla vigilia del derby, quella famosa conferenza stampa, delle dichiarazioni così particolareggiate sulla condizione fisica di Totti che nell'abitudine calcio italiano non fa mai nessuno. Non c'è nessun giocatore si sentirebbe dire che non ha che non ha grande passo, che ha dei problemi. Ma fa, io ho detto, se tu per due mesi tratti da ex calciatore, che perché questo c'è. Ha fatto Spalletti, un giocatore come Totti, poi quantomeno gli devi chiedere scusa dopo che ti ha risolto due partite. Se no, così non è, scusa, perché c'è qualcosa, Giovanni, di personale. Ma neanche scusa. Aspetta che ci sono un po' di amici da casa. No, aspetta un attimo, che te ne dico aspetto, una io, prego, perché Carlo. La risonanza magnetica ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Marchisio. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico. Questo è un comunicato ufficiale della Juventus. Fuori 6 mesi, addio europeo. E questa è una davvero una pessima notizia per Conte, poi abbiamo modo di parlarne. Dopo Perin, guarda, sono veramente Giuseppe da Roma, dai Giuseppe. Buonasera, ma voi dopo questa notizia mi avete distrutto, io sono juventino, anche se è da Roma che chiamo. oggi è una brutta notizia per tutti, brutta notizia per Marchisio, per la Juventus, ma soprattutto per la nazionale, perché la Juventus lo scudetto ce l'ha in saccoccia, Marchisio oppure no. Io volevo intervenire a proposito del discorso tra Spalletti e Totti. Totti non è un giocatore. Totti è qualcosa di più di un giocatore. Sì. Ed è quasi un dirigente. Totti ha un ufficio suo personale all'interno lo di sappiamo. Vittoria. Ma questo però non riesco allora, a capire cosa significa questa. Questa è una situazione anomala, anomalissima. Sì, certo. Chi ha a che fare con lui? Chi ha a che fare con lui? O la deve sopportare. Non so se voi avete letto, io ho letto un piccolo trafiletto del libro che ha scritto Garzia, di quando lui entra al Trigoria e ha visto l'ufficio di Totti. Con tutte le maglie, con tutti i gadget. Ho capito com'era la situazione. Sì, però, ma certo, ma questo vale per Totti come valeva per Del Piero, come valeva per Maldini, come valeva per tutti però, i grandi... Scusa, che posso dire una cosa? Non è nemmeno, questo, perché se tu dopo 2 mesi che non lo fai giocare... e gli ne dici dietro di tutti i colori, lo metti in due esatto. mezze partite, in due spezzoni di partita, nel momento della difficoltà, e Totti entra e ti risolve la partita, vuol dire che non è vero che Totti è un dirigente, è un dio, è il terzo papa, il secondo papa, l'ottavo re di Roma, dite tutto. È un giocatore di calcio, non da 90 minuti, non da maglia titolare, non quello che vuoi. Ma allora, sì, ma che problema c'è a dirlo? Questo, ma qual è il problema? Qual è il problema di ammetterlo? Grazie capitano, non in 10 minuti riesci comunque a darci qualcosa. Non stiamo appunto. Più parlando del cosa vuol dire andare davanti alle telecamere e dire lui deve decidere lui che vuol fare, il calciatore, il dirigente, un'altra roba. La corsa, contano i contrasti, conta mettere giù la palla e fare gol. Aspettate. Allora, c'è il traffico, poi ci sono ancora un paio di amici, c'è tanta carne al fuoco oggi. Totti deve fare che gli pare e voi dite che vi pare. Per me non sussiste. Io alleno la squadra e metto in campo la squadra per vincere ogni volta. Non ho lo stesso obiettivo vostro. Tutti convocati. Tutti convocati. Guarda, c'è chi dice cosa c'è di strano che decida l'allenatore, lo pagano per questo, ma difatti, per carità, può decidere quello che vuole, però bisogna essere coerenti con se stessi. E oggi, ma forse abbiamo la spiegazione, la ripetiamo la notizia, o meglio l'indiscrezione, di questo pesante diverbio tra Totti e Spalletti davanti allo spogliatoio alla fine di Atalanta-Roma. Ci sono testimoni, non ci sono conferme che si siano messi le mani addosso, ma tanto scopriremo tutto in fretta, perché negli spogliatoi degli stadi italiani i muri hanno le orecchie, giusto Pier, no? Quindi sì. Sapremo tutto di tutti. Dai, Achille da Cesena, Achille. Ciao a tutti. Eccoci. Volevo solamente dire due cose su questo diverbio fra Spalletti e Totti. Io sto con Totti per una semplice ragione. Perché lui è il calcio, io sono juventino, però riconosco che lui è un giocatore di una categoria superiore, credo che la Roma gli debba tanto. Poi credo che anche Spalletti abbia fatto delle dichiarazioni ultimamente in cui non mi trovano assolutamente d'accordo, quello sulla mia viola in campo, sul fatto che ci debba essere il tempo effettivo. Io credo che il bello del calcio... sia anche la mano di Maradona, che la mano di Dios di Maradona, sia il bello di buttarsi per terra e fare anche 2 minuti all'ultimo minuto, se fossi nel Leicester, l'ultimo minuto mi butto per terra perché voglio vincere lo scudetto, sono in Leicester e quindi voglio vincere a tutti i costi. Insomma, la furbata. Però, il calcio è questo, chi ha giocato a pallone ha fatto questo, ha fatto altro, ma questo è anche il bello del calcio, perché ricordatevi che poi quando si scrive di calcio, quando Buffa parla di calcio, parla di parla anche di episodi che fanno la storia del calcio e la storia di questo sport, e è bello anche per questo. Io credo che non bisogna snaturarlo facendo il tempo effettivo, la moviola in campo, ci fermiamo, guardiamo tutto. Secondo me diventiamo un po' troppo tecnologici in questo senso. Va benissimo la linea, la fatto gol, no gol, va bene. Ma ci teniamo quindi anche il fascino e l'emozione di un calciatore di quasi 40 anni che in 17 minuti ribalta una partita, esce e manda a quel paese il suo allenatore. E poi gli viene detto che tanto non è così importante. Pier, abbiamo Ottavio Bianchi, che credo sia l'ultimo allenatore a Roma che non ha avuto a che fare con Totti. O sbaglio, Ottavio? Non lo so. No, era piccolo, purtroppo per me. No. Purtroppo? Sì, da che parte sta Ottavio Bianchi in questa cosa qui di queste settimane, di oggi? Oggi poi è esplosa in maniera fragorosa. Non so di cosa state parlando, perché mi avete chiamato adesso, ma poi ero in viaggio. C'è questa cosa Totti che oggi è entrato, dice da un quarto d'ora dalla fine, con la Roma sotto, gli ha risolto la partita, ha segnato il 3-3, ha giocato una partita straordinaria. I primi due gol, e poi dopo sono stato in viaggio, adesso ho visto tutto il resto. Spalletti in conferenza stampa e dice per me non cambia niente, Totti non ha fatto niente, Dzeko soffre il dualismo con Totti, poverino, siete voi che vi fate sto problema di Totti non è un problema, deve fare quello che vuole. Poi si scopre che i due nel dopo partita, prima che Spalletti arrivasse a quelle dichiarazioni un po' ruvide, qualcosa si sono detti e forse si sono fatti, non si sa adesso, questo ma vedremo. Non lo so, io guardate, questo sono cose giornalistiche, giusto che non è di spogliatoio, almeno tanti anni fa, per chi hanno usato, come diceva il mio vecchio allenatore, il Paron Rocco, diceva che chi non ha sentito odore di canfora negli spogliatoi e vede tutte le cose diverse. Negli spogliatoi è chiaro che succedevano di tutto e di più, però io penso sempre che il buon senso debba esserci, il rispetto nei ruoli ci debba essere, altrimenti è un caos. Il calcio è l'espressione fantastica dell'esaltazione del gioco di squadra. Il gioco di squadra non può prescindere dall'individuo. C'è il detto fantastico che le qualità del singolo esaltano il collettivo viene esaltato dalle qualità del singolo. Con 11 fuori classe non vince neanche una partita, vince con una buona squadra più un fuori classe o due se vanno d'accordo. Con l'equilibrio, Io, a me Spalletti sta piacendo in campo, cioè secondo me lo sta gestendo bene. E il fatto che Totti nelle ultime due partite sia entrato e abbia dato comunque un valore aggiunto è una dimostrazione che la cosa funziona. Mi comincia, ripeto, la conferenza stampa prima del termine mi ha veramente colpito, perché sentire Spalletti usare espressioni così puntute, così particolareggiate, così precise nei confronti di Totti, dei test della partitella con la Primavera, ha ragione sicuramente i test fisici aerobici di Totti nella partitella con la Primavera non sono quelli di un giocatore che può fare 90 minuti, non c'è dubbio su questo, però sentirlo dire in una maniera così chiara e così precisa è abbastanza strano, è abbastanza particolare, perché comunque insomma sappiamo che nel mondo del calcio, che se vuoi è un mondo anche un po' omertoso, diplomatico, mille situazioni, non è che sta lì a... No, è omertoso per quando volete essere omertosi, perché sapete tutto. Poi, no, però voglio dirti che raramente senti un allenatore, Ottavio, raramente tu senti un allenatore fare una dichiarazione come quella che ha fatto Spalletti oggi o come quella che ha fatto Spalletti prima di quel derby, quando... Sì, ma vabbè, ma il problema della Roma sembra sia ormai fatto Spalletti-Totti-Totti-Spalletti, invece c'è stata una rincorsa magnifica che adesso hanno vanificato con queste due partite, e anche per il fatto che molto probabilmente la rincorsa è stata fatta in maniera dove l'allenatore aveva in mano, subentrando, quando uno subentra la prima cosa che deve fare è far chiarezza e far capire che è lui che comanda, in una maniera o in un'altra, anche perché la società in quel momento è in grave difficoltà e devono, anche quelli che di solito parlano e dicono delle stupidaggini, devono stare zitti. E allora c'è in mano tutto l'allenatore deve imporre la sua volontà. con le belle o con le brutte, se vuoi il risultato a tempo breve lì. Ma questa rottura con Totti può portare un po' di caos di nuovo nello spogliatoio? Cioè... Ma di sicuro non è una cosa simpatica, anzi, direi che è una cosa che fa un nervosismo notevole, perché perdi serenità, perdi tutto, però sa, io Totti è la storia del calcio italiano, non dico romano, che praticamente è la Roma, però l'allenatore deve pensare alla squadra, non puoi pensare che vada lì e con tutto il rispetto per un grande campione lui deve pensare agli altri 20 anche, altrimenti l'allenatore lo fa dalla faccia il presidente. Ne abbiamo già di episodi dove il presidente fa l'allenatore, per delegittimare un allenatore ci vuole dei 30-40 secondi. Sì, abbiamo visto questa settimana, l'abbiamo già visto un paio di volte. A questo punto l'allenatore lo prendete in grave difficoltà, l'allenatore fa le sue scelte e bisogna che lo rispettino tutti in prima maniera i giocatori, altrimenti è caos. Intanto, a proposito degli allenatori nuovi, la Lazio continua a vincere 1-0 sull'Empoli, 24esimo gol di Candreva su calcio di rigore al sesto. Candreva che ha avuto anche la palla per il raddoppio e l'ha sbagliata. A proposito di nervosismi, mi fate sentire quella cosa lì sul Napoli. Napoli sa invece di aver perso una grande occasione, c'era molto nervosismo soprattutto per quell'episodio del primo tempo con il gol di Icardi, per quel piede leggermente avanti, quel fuorigioco che ha fatto davvero infuriare il Napoli. Il presidente De Laurentiis è stato descritto molto arrabbiato, aveva persino provato a parlare durante gli intervalli, ovviamente non si può per motivi anche di diritti. Oh, questo è il post partita di Premium, giusto no Pier? Di ieri sera di Inter-Napoli, sì. De Laurentiis che poi se n'è andato da San Siro. Io volevo un po' capire cosa succede al Napoli. A me interesserebbe capire se il Napoli rischia il secondo posto e se la Roma potrebbe rischiare il terzo. Bianchi. La Roma ha perso una bella occasione per avvicinarsi. Il Napoli ha fatto un campionato molto buono. Aveva la possibilità di tenere pressione alla Juventus che in una maniera o in un'altra riesce sempre a tirarsi fuori. La differenza è proprio quella che bisogna lamentarsi poco se vuoi fare risultati, e anche quando hai qualcosa che non ti va bene, se tu ti crei degli alibi ottieni degli effetti. Esatto. Poi dopo alla fine quelli preposti a reclamare lo faranno, ma se tu a Napoli, io mi ricordo da giocatore, perché esperienze purtroppo per la mia età da giocare, avevamo una grande squadra di grandi giocatori, non vincevamo mai niente, facevamo una partita buona contro le grandi, contro le piccole, in certe squadre, che può essere il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, è sempre colpa di qualcun altro, quelle che non hanno storia, che non sono abituate a vincere, è chiaro che vanno dentro con un complesso un po' di... Anche se tu devi essere attrezzato, vuoi vincere, devi essere attrezzato a sapere che in certe circostanze può esserci delle cose sfavorevoli, ma devi prepararti anche a quello. Ha sbagliato un po' Sarri in questi mesi, Ottavio, ha sbagliato un po' Sarri in queste settimane, in questi mesi, proprio nella gestione anche a livello comunicativo. Ma no, io guardo gli altri anni, anche gli altri anni sono arrivati lì ad essere competitivi, poi non puoi pensare di... La Juve aveva, fino a poco tempo fa, ha avuto la Coppa Italia e ha avuto la Champions League, il Napoli non aveva questo, può preoccuparsi solo della domenica. Voi sapete che in questo periodo il Barcellona non è l'esempio, ma anche negli altri anni, in 7 giorni puoi perdere tutto. Certo. Perché certo. I microtraumi che prima del campionato, all'inizio del campionato, li recuperi in 2 giorni, adesso ci vuole 5 giorni. Certo. 5 giorni hai perso la partita. Una partita in nazionale a 15.000 chilometri, quando torni ci vuole 10 giorni di per recupero. Prima ci mettevi 3 giorni. A condizione che non diventino alibi, Ottavio. Certo, queste le sono tutte cose che le sai, che le sai, le devi calcolare. Io vi assicuro che quando facevo quel mestiere non sono mai riuscito a ottenere niente dopo trasferte dei miei giocatori che andavano fuori a giocare dall'altra parte del mondo. Le ho tentate tutte, non sono stato capace di portarle in condizioni quando sono tornate in breve tempo. E poi lì, poi lì c'è a quel punto la profondità di una rosa, e su questo la differenza tra Juve e Napoli è stata evidente. Grazie a Ottavio Bianchi. Prego, di grazie. Nuovo. Grazie a Ottavio Bianchi. Però, sì, Pier. Sì, dico, oltre alla profondità della rosa, quello che dice Ottavio anche è la mentalità. È questo. Cioè, io oggi ho commentato la Roma, mi viene da dire che la Roma, che la Juve una partita avanti 2-0 non avrebbe rischiato di perdere e poi pareggiata. Magari mi sbaglio, però la sensazione non sia così. Il Napoli, sì, la Juve avanti 2-0 la perde col Bayern Monaco adesso, ma giusto, sì, perché è successo l'altro ieri, qualche settimana fa, ma siamo su altri livelli, è l'unica imbarcata della stagione, e forse anche a livello europeo la mentalità della Juve, ma questo è un tema decennale, è una mentalità diversa rispetto a quella italiana. Allora, intanto ammonito Keita, Lazio 1 Empoli 0, 29esimo minuto. Facciamo Eugenio da Pesaro prima della pausa. Eugenio, eccoci. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire riguardo alla possibile convocazione di Totti e Pirlo in nazionale che avete supposto. Sì, provocazioni che abbiamo lanciato noi. Su Pirlo un po' meno, visto che la notizia è ufficiale, rottura del legamento anteriore, crociato anteriore del ginocchio sinistro per Marchisio. Sei mesi fuori. Prego, Eugenio. Io dico che si può essere un po' un rischio che una sconfitta abbastanza annunciata della nazionale all'europeo, visto la pochezza dei nostri giocatori, che comunque può essere pilotata da Conte in maniera abbastanza dignitosa, possa trasformarsi in una sorta di catastrofe grottesca, con dei giocatori degli ex campioni del mondo che si vedono trascinarsi sul campo, non lo so come tu non li chiameresti, insomma, questo io non li chiamerei, non lo so, come mettere la Cardinale, la Loren a Berto, sì, vabbè, insomma, adesso loro tempo, Pirlo non ha 80 anni, però sì, ma allora, assoluto vero, non è una scelta progettuale, può essere una scelta contingente di emergenza. Io parlo di Pirlo, soprattutto Pier, è la provocazione che vi ha lanciato all'inizio, ragionando anche con Toni Damascelli. Cioè, se tu perdi Marchisio, non sai bene come sta Verratti, magari se Pirlo è in condizioni sufficienti. Tanto per cominciare, mi porto Jorginho. Tanto per cominciare. Sì, ma sicuramente adesso Pirlo chiaramente deve essere valutato, considerato che sta dall'altra parte del mondo. Pirlo non è una provocazione, Pirlo è una suggestione, Totti è una provocazione, nel senso che Totti chiaramente non è un giocatore che ti puoi portare nei 23, però è un giocatore che nelle ultime due partite ha dimostrato per l'ennesima volta di essere comunque sempre un grande giocatore, che è quello che in qualche modo Spalletti dice anche, fra le 100 cose che dice, però nel linguaggio del calcio, nel linguaggio, se vuoi, anche appunto un po' omertoso, un po' diplomatico delle conferenze stampa e delle dichiarazioni dei giocatori e degli allenatori, io raramente ho sentito delle critiche così precise nei confronti di qualcuno, e se penso che questo qualcuno ha fatto la storia della Roma e del calcio italiano, mi fa abbastanza impressione, ecco. Poi sulla sostanza delle scelte di Spalletti, io sono d'accordo che Spalletti comunque ha avuto un impatto molto positivo. Oggi sono delle cose della formazione che non ho capito, una su tutte Rudiger su un piccolo come Gomez, è una cosa che non ho capito, però insomma sta facendo benissimo anche attraverso questa decisione sofferta e dolorosa per la piazza, che è stata quella alcune volte di lasciar fuori Totti e di usarlo per quando serve, come ha dimostrato l'ultima due partite. Certo, ma quando lo usi e serve, perché non dirlo? Questo è il senso. Perché non ammetterlo? Si entra in un discorso più ampio. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. It's a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. Non ho nessuna intenzione di stravolgere niente, perché non sono un pazzo, ma i giocatori hanno delle certezze, ma non devono avere la sicurezza di niente. Il mio obiettivo di domani sarà quello di vedere un 5% da parte dei ragazzi che scenderanno in campo e non di avvicinamento a quelle che sono state le mie richieste in settimana. Non è tantissimo. Ma se mettiamo un 5% a testa, la percentuale dopo può aumentare. Può aumentare, può aumentare. Se io pensassi che domani il Milan dovesse scendere in campo giocando al 100% il calcio che io ho in mente, il calcio che ho sempre cercato di fare da quando faccio questo lavoro, sarei un presuntuoso. Non ho questo pensiero, non esistono maghi che nel giro di pochi giorni possono stravolgere le idee e i pensieri di una squadra che ha lavorato con altri allenatori. Non esistono maghi. Non è che uno arriva con la bacchetta magica, cambia tutto. Quando vinci sei un mago, quando perdi sei, che non si può dire. Io vorrei essere Harry Potter, ma purtroppo non c'è bacchetta magica. Io sì, io sì, io sì. I'm here in secret. I'm a... Allora, a parte che Brocchi sfida tutto. Siamo ai pezzoni oggi. Il parallelo dei maghi che ha prima portato gli due, adesso sì, ha portato una iella pazzesca a Inzaghi, a Mihajlovic. Arriva Brocchi, dice: io non sono un mago. Aspetta che saluto Monica Colombo. Ciao Monica, Corriere della Sera. Ciao, buonasera a voi. Però abbassa la radio, abbassa la radio Monica, perché sennò sentiamo tutto. Io ho l'impressione che stasera Marassi, Brocchi si giochi se non tutto quasi in 90 minuti, cioè se inizia bene magari riesce a tenere in pugno lo spogliatoio, costruire un finale di stagione. Se dovesse iniziare male, poi insomma. Ma diciamo che la prima prova è certamente importante, anche se per quel che riguarda il suo lavoro dobbiamo ricordare che ha avuto pochissimi giorni a disposizione per trasmettere i propri concetti di gioco, e quindi credo che sotto questo profilo anche il Cavaliere, che sappiamo è molto esigente, in questo frangente penso che chiuderà un occhio, perlomeno sarà più benevolo. Del resto, a parte il passaggio di modulo al 4-3-1-2, per quel che concerne la formazione non ci dovrebbero essere degli sconvolgimenti epocali, se non diciamo la contemporanea presenza di Kučka e Bertolacci e l'esclusione di Honda. Conterà molto, Pierluigi, l'atteggiamento che vedremo, gli occhi che vedremo nel Milan questa sera. Sì, ciao Monica, devo salutarla così perché è un nostro ciao, comico. Come stai? Bene, bella persona. Senti, no, ma Brocchi è bella persona, nel senso, vabbè, come ragazzo sicuramente sì, ma con che tipo di pedigree arriva? Nel senso che si è parlato molto di lui. A Roma, diciamo, la Sora Camilla, no? A un certo punto sembrava veramente uno sempre sul punto di prendersi questa panchina, poi in questo momento non arrivava mai, è successo tante volte, adesso è arrivato. Perché piace così tanto a Berlusconi? Ma piace proprio per il progetto di modello Milan che sta portando avanti, impostato soprattutto sul possesso palla, sull'aggressività, insomma su concetti di gioco che Mihajlovic in effetti in questa stagione non ha fatto vedere, ma neanche nelle stagioni precedenti, perché tutti noi sappiamo che le squadre di Mihajlovic, come la Sampdoria l'anno scorso, erano una sorta di piccolo Atletico Madrid, cioè squadre più adatte a distruggere il gioco avversario che non ad imporlo. Mentre i dettami, diciamo, delle giovanili del Milan sono basate su, appunto, sull'aggressività, sul possesso palla e sul fatto di essere facitori di gioco e non il fatto di subirlo, sì. Insomma. Sì, però Monica, noi non abbiamo nemmeno capito bene, o forse l'abbiamo capito, se questo Milan ha ad esempio gli uomini per giocare come piace a Berlusconi e come Brocchi farà questa sera, cioè il trequartista, il 4-3-1-2, le due punte, perché Mihajlovic ci aveva provato all'inizio dell'anno, poi a un certo punto ha dovuto cambiare idea. Sì, probabilmente, come dire, gli uomini sono questi, quindi la rosa non è propriamente attrezzata per fare il tiki taka, diciamo. No, di sicuro. Però Brocchi deve aver convinto evidentemente il presidente di poter compiere il miracolo. Il problema è che ha solo 7 partite a disposizione, di cui 6 di campionato e 3 racchiuse in 9 giorni, e quindi, come lui stesso ha ammesso, qui i maghi non ci sono. Quindi, al di là di quelle che sono le promesse che vengono fatte nel chiuso di Arcore, e poi però si gioca, nel senso che poi però ci sono le partite e vedremo questa sera, tra poco, se il Milan sarà in grado di mettere in campo anche quel poco di credo tattico di Brocchi che è stato promesso. Ma voi non avete l'impressione, sembra, Pier, allargo anche a te, non avete l'impressione, non mi sembra una scelta progettuale che quella sia di Brocchi. Esatto, che sia un falso problema, cioè il Milan tutto è in un momento di passaggio, si esatto, chiude con Brocchi in questa stagione. Non mi sembra una scelta progettuale. Ma beh, va ragazzi, come va, perché non Brocchi, lo so. Perché Brocchi c'ha questo cognome qui, adesso. Sinceramente, voglio dire, perché quindi, Brocchi non ha un minuto su una panchina dei grandi, Pier, vabbè, non ma per il cognome. Anche Guardiola, io sì, ma Guardiola è uno, allora, tutti gli altri hanno fallito. Milan, che al Milan abbiano fatto fin troppi esperimenti negli ultimi anni, su questo non c'è dubbio, hanno provato allenatori appunto esordienti, come nel caso di Zaghi, come lo stesso Clarence Taylor, quindi che il tempo degli esperimenti sia, forse debba essere considerato finito, posso essere d'accordo. Io dico la verità, non sapete come la penso, io non considero l'esonero di Mihajlovic come una cosa così scandalosa. Mihajlovic, secondo me, è una persona intelligente, è il primo a sapere che poteva fare di più, è il primo deluso della sua stagione. Il Milan ha fatto 2 punti nelle ultime 5 partite, il Milan rischia anche il 6° posto, non so se è chiaro il concetto. Adesso la Lazio si sta riassettando. Sì, Lazio che continua a vincere, 42-1-0. Sassuolo è, insomma, sembra che non abbia più tanta benzina, ma Lazio e Sassuolo potenzialmente sono nella condizione di poter superare il Milan, se il Milan continua a fare 2 punti nelle ultime 5 partite. Quindi, secondo me, non è una cosa francamente così assurda. Poi che il nome di Brocchi ovviamente possa sollevare scetticismo è normale, perché è un allenatore esordiente, quindi nessuno sa com'è. E poi da calciatore è stato un bravissimo gregario, ma certamente non ha il physique du role, come direbbe Galliani, di Roberto Mancini o di Guardiola o dello stesso Conte alla fine, no? E quindi è chiaro che è tutto un viaggio da fare, tutta una storia da costruire, però dico pure che non mi sembra così scandalosa come decisione. La decisione che ci sta a fronte, no, è rischiosa, è una decisione rischiosa di una società che viene da Seedorf, Inzaghi viene da una serie, dato 2-0 dalla Lazio, raddoppio della Lazio. Tanto raddoppio della Lazio, 43esimo minuto, Onazzi, il gol del 2-0, dunque Lazio che in questo momento scala la classifica e si pone a quota 48 con il Sassuolo e a un punto dal Milan. No, dicevo, è la scelta di una società che negli ultimi anni ha già sbagliato 2 volte con allenatori esordienti, stiamo parlando di Seedorf ed Inzaghi, un po' meglio con Leonardo, però è una società che forse avrebbe bisogno di una mano più forte, ma ripeto, poi del Milan bisognerà anche capire che cosa sarà da qui a qualche settimana. Grazie Monica, buona partita. Ciao Monica. A voi, buona serata. Ciao. Grazie, ciao, Monica, ciao. Colombo. Pier, traffico, poi ti salutiamo. Traffico. Okay. Io sto qua da 10 minuti e vengono sempre tutti davanti. Tutti convocati. Convocati. 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Cos'è questa cosa? Allora, questa settimana siamo in ritardo con la conferenza stampa e tutto. No. Io ce l'ho l'intenzione di fare adesso la conferenza stampa per partite questa sera con Sampdoria. Sinisa, se no. Volete trasmettere su radio, no. Non c'è problema. No, tutto. No, Sinisa, non c'è nessuna conferenza stampa. Possiamo c'è fare... Brocchi, gioca fra 2 ore il Milan. Questa è mancanza di rispetto. Vedremo stasera se Milan, fatti, mi pare se Milan fatti, è squadra, no? Di Brocchi. No, Brocchi l'allenatore. Vedremo se dopo Sampdoria stapperemo bottiglie di champagne, di buon prosecco. O semplice gassosa. Io non ho la bacchetta magica di Geripote. No, ma non è neanche la panchina, c'è niente da stappare. Non c'è più una panchina sulla quale sedersi. C'è Brocchi, Brocchi in panchina. Cosa dici? Sì. Dico che voglio ringraziare. Sì. Aspetta un attimo, cosa dico dopo in conferenza? Che devo io faccio un ringraziamento al nostro presidente. A parla con Pippo Sapienza. Dico che migliore Pierre. Presidente di calcio e tutto, che mi ha dato, che mi ha espresso la fiducia. Sì, no, non ha espresso fiducia. No, niente fiducia. Ma chi tolta è questa? La fiducia. Chi è questa? Pierluigi Pardo. Sì. Senti, Pierluigi Pardo. Tu giornalista non devi far parlare la donna. Ma no, me, era Monica Colombo. Per me donne, che siano colombi o non colombi, non è importante. Donne non devono parlare di calcio. Sinisa, non sono adatte di parlare di calcio. Sinisa, nemmeno tu, ti hanno licenziato. Allora, facciamo la conferenza stampa. No, adesso aspetta quanto. Allora, però siamo un po' in ritardo. Ma voi siete sempre quelli che mi fanno aspettare. Questa settimana allora, sono in ritardo. Non c'è mancanza di rispetto totale. Sei un uomo distrutto. È un uomo distrutto. Scusate, se no, chiedo con la signorina che in regia parla di calcio. No, non parla di calcio. Perché non deve parlare di calcio. No, parla di calcio. Non devono parlare. La donna deve andare in cucina a preparare buon risotto con la cipolla. E poi Sinisa, tranquillo. C'è un poco di tosse. Noi intanto parliamo di motori. Tranquillo. Sinisa, tu basta lì, che non parla donna di motori. Perché donna non capisce e non può parlare di motori. Ciao, Pier. Ciao. La bacchetta magica, Pier Pardo. No. Facciamo parlare Umberto Zappelloni. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Direttore, ciao, buonasera a tutti. No, un uomo distrutto, il nostro Sinisa. Dai, parliamo un po' di motori. Un uomo distrutto. Sì, certo. Distrutto. Ci tiriamo un po' su di morale, dai, motori. Invece Kimi Raikkonen, partenza disastro per la Ferrari. Good job Sebastian, P2, and great recovery, strong weekend. Excuse me, massive apologies to the team, but surely I didn't do it on purpose. I'm really sorry for Kimi, was nothing I could do. Kimi had came like a torpedo and I had to react. Alla fine il secondo posto di Sebastian e il piazzamento di Kimi sono frutto di un'ottima gara? Sì, però mi sono anche stufato di dire queste cose perché per un motivo o per l'altro non va come deve andare. Speriamo che si raddrizzi. Sono più imbarazzati loro che io, quindi lo sanno meglio di me e sanno benissimo come correggere. È stata una svista, credo, sfortunatamente ci è costato un bel po' durante la gara. Detto così, questo quello che ha fatto Vettel e anche Raikkonen poi alla fine contro Hamilton è stato un capolavoro. I piloti ci sono, la macchina c'è, ha imbarazzato la Mercedes nella seconda metà della gara, quindi sono contento. Ho visto la Ferrari che sta crescendo, ho visto una Ferrari che mi piace, che è in alcuni sensi quasi immatura, ma sta venendo benissimo. È come guardare i bambini, stanno uscendo veramente bene, un po' ribelle. Contento Marchionne, contenti tutti. Io non so cosa ne pensa Zappelloni. No, mi sembra il contrario. No, mi sembra una Ferrari che non si accontenta più. Ma no, insomma. Poi no, mi sembra una è Ferrari un dettaglio che alla prima più. Curva Rosberg vola via. Non so. Mi sembra una Ferrari che non si accontenta più, direttore. Direttore. Non si accontenta più, ma mi sembra che Marchionne abbia visto un'altra gara. Perché quando mi racconta che la Ferrari ha imbarazzato la Mercedes nella seconda parte del Gran Premio, non so a cosa si riferisce, forse a Hamilton, che è vero è stato superato dalle due Ferrari in quel frangente, però aveva una Mercedes decisamente mal ridotta dopo i problemi al via, perché Rosberg ha fatto una gara a sé solitaria dall'inizio alla fine, senza che nessuno mettesse mai in dubbio la sua supremazia. Quindi insomma mi sembra che si sia un po' sopravvalutando questa Ferrari. C'è da dire che ragione arriva bene quando dice che non c'è una gara in cui si è affidato tutto liscio, perché la prima gara dell'anno Vettel ha avuto Però questo non è un alibi, questa è una colpa secondo me. No, è una colpa, ma è anche dovuta al fatto che la Ferrari deve assolutamente rischiare per cercare di restare all'altezza della Mercedes. Ha rischiato in qualifica tenendosi un set di gomme in più e ha fallito la qualifica, ha rischiato oggi in partenza dove però non sono partite bene le due Ferrari, mentre le due Red Bull sono filate via benissimo, come avevano fatto le Ferrari in Australia. Poi tutte e due i piloti hanno fatto due grandi rimonte, questo è vero, i due piloti ci sono, nonostante l'errore al via di Vettel, perché poi Vettel era quindicesimo, è arrivato secondo, Raikkonen era addirittura secondo, è ultimo ed è arrivato quinto. Quindi la rimonta c'è sicuramente stata. Certo, dopo le prime due gare dell'anno si pensava che fosse una gara soltanto Mercedes-Ferrari, qui le Ferrari hanno permesso alla Red Bull di rimettersi di mezzo, cosa che con un Hamilton così attardato avrebbero dovuto evitare, quindi insomma c'è ancora un bicchiere con un po' di vuoto, non è soltanto mezzo pieno. Sì, no, io se posso dire la mia direi decisamente mezzo vuoto, poi mi chiedo anche se 42 punti di Vettel da Rosberg, 47 di Raikkonen siano la fotografia esatta e temo di sì di quello che è la Ferrari. Rosberg è già in fuga, Rosberg è già in fuga. 3-0 della Mercedes, 3-0 della Mercedes, della Ferrari, certo. 53 punti in più in classifica costruttore tra i due piloti, insomma l'anno scorso era partita meglio perché Vettel la seconda gara l'aveva già vinta. Però l'anno scorso c'era un atteggiamento diverso, direttore, c'è un atteggiamento come per dire, quante volte abbiamo sentito arriva bene dire testa bassa e pedalare, pochi complimenti. Adesso invece mi sembra che l'atteggiamento sia cambiato e che all'interno della Ferrari non ci si voglia più accontentare. Sì, anche per colpa della stessa presidenza, perché non siamo io né voi a aver detto all'inizio dell'anno che questa Ferrari deve vincere il campionato del mondo, doveva vincere addirittura tutte le gare, perché era prevedibile che dopo aver vinto tre gare l'anno scorso fare un altro passo avanti poteva significare arrivare a vincere più di quelle tre gare, arrivare a essere competitive per poter vincere ogni Gran Premio, ma non a stravincere il mondiale come qualcuno voleva far intendere, perché i miracoli in Formula 1 non esistono con un regolamento che è così impacchettato che non può stravolgere i motori e le macchine da un anno all'altro. Quindi ci si era forse fidati troppo delle promesse di Marchionne all'inizio del campionato e adesso ci si rende conto che la realtà è sicuramente più dura di quella che c'era stata dipinta e che non sarà semplice battere queste Mercedes, che però è anche vero che mettendole in difficoltà poi le Mercedes possono rischiare di compromettere la loro gara. Hamilton ha avuto problemi durante tutto il weekend e questo è sicuramente un dato di fatto. Rosberg invece sta andando tutto magnificamente, come non era mai capitato nelle ultime gare, adesso è obiettivamente lui il grande favorito. Obiettivamente cambiano le gerarchie anche del mondo in casa mi sembra Mercedes. Affaccendati in altre cose. Dobbiamo fermarci perché siamo già oltre il tempo limite. Grazie Umberto Zappelloni. Sì, grazie a voi, buona serata. Grazie Umberto Zappelloni. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte, Andrea Roccabella a regia, il nostro mitico Andro Mercu, in arte sinigia. Ciao Andro, domenica. Sì, ma non fate parlare quello che sono. No, domenica allora, prossima. Domenica prossima alle 17. Domenica prossima alle 17. Ci vediamo domani dopo il GR delle 14. Tornano Carlo Genta, Pierluigi Pardo. Ciao. Posso chiederti cosa hai pensato all'avvio quando si sono toccate le due macchine? Se me lo chiedi poi scatta il beef, meglio di no.